6. Ascolta e controlla. 1. Dormirei ancora, ma non posso. È già molto tardi. 2. Luca resterebbe ancora qualche giorno al mare, ma non può perché le vacanze finiscono domani. 3. I signori bianchi dovrebbero arrivare fra poco. 4. Mi faresti un favore? 5. Ci potrebbe aiutare, per cortesia? 6. Risponderemmo subito all'email, ma manca il collegamento. 7. Sareste disponibili a lavorare sabato e domenica? 8. Tradurrebbe questo testo per domani, per favore?